Io adesso vi farò un augurio che penso meraviglierà più di una persona. Io vi auguro e vi dico buon anno. Qualcuno mi guarda e dice: Don, ma siamo a metà novembre, cosa vuol dire buon anno? Buon anno cristiano. Perché? Non c'è solamente l'anno che comincia col 1° gennaio, l'anno solare, c'è anche l'anno scolastico, c'è anche l'anno calcistico, c'è anche l'anno civile, c'è anche l'anno liturgico, l'anno cristiano. Perché? Se c'eravate a messa domenica scorsa avete sentito che abbiamo celebrato la festa di Cristo, Re dell'Universo, che riassumeva in sé tutti i titoli onorifici del padrone del mondo, Cristo, e si concludeva l'anno liturgico. Oggi, con la prima domenica di Avvento, che per noi ambrosiani comincia 2 settimane prima dei Romani. Dico questo perché magari qualcuno di voi viene dal paese vicino che è di rito romano e dice: ma come mai? Nella mia parrocchia comincia fra 15 giorni. Non è che in una predica si può spiegare dall'A alla Z, si buttano lì dei flash. Dunque comincia l'anno liturgico durante il quale la Chiesa ci presenterà il suo tesoro più importante, che è Gesù. E ce lo presenterà narrandoci la sua vita in un anno. Beh, si dice che la vita di Gesù è durata 33 anni, ma la si riassume in un anno solo. Cominceremo l'attesa di Gesù che viene, il Natale, poi ci sarà l'Epifania, la manifestazione ai Magi. Poi ci sarà il battesimo di Gesù nel Giordano, poi arriverà la Pasqua preceduta dalla Quaresima, poi arriveranno le feste di Gesù che sale al cielo, l'ascensione, Gesù che manda lo Spirito Santo, la Pentecoste, e poi continuerà la narrazione fino alla festa di Gesù Cristo, Re dell'Universo, e si ricomincerà da capo. Ora, tanti di noi non è il primo anno liturgico che vivono. Facciamo un esame di coscienza se siamo cresciuti un po' nel nostro cristianesimo, se no è triste. Allora cominciamo con l'Avvento. L'Avvento vuol dire Gesù che viene nel Santo Natale. Però abbiamo sentito il Vangelo, e sarà così anche le domeniche prossime, che ci parla anche di una seconda venuta alla fine del mondo, e ce lo descriveva in una maniera un po' complicata, no? Bisognerebbe il Vangelo studiarcelo, ce lo ripetiamo tutti gli anni. Io sono a disposizione di voi adulti. Nella parrocchia precedente, dove ero parroco, io leggevo tutte le settimane il Vangelo a 3 gruppi diversi, più a un quarto gruppo la domenica sera, una volta al mese. Se qualcuno di voi adulti, per i ragazzi c'è Don Fabio, no? Ma per voi adulti, se qualcuno di voi volesse conoscere un po' il Vangelo, io sono a disposizione, vi incontro in casa mia. Possiamo starci in diversi, una volta al mese, una domenica sera, e approfondiamo questo. Ma io vi pregherei di farvi avanti. Sapeste com'è bello leggere il Vangelo in casa? È molto diverso che leggerlo in oratorio o in parrocchia. In oratorio o in parrocchia c'è un clima freddo, no, non di riscaldamento, eh? Clima freddo perché ci sono i banchi come a scuola. Ci sono i tavoli come a scuola, in casa no, in casa è accogliente, ma questa è un'altra storia, la vedremo. Oggi vi devo sottolineare questo duplice messaggio: aspettare Gesù nel Santo Natale e aspettare Gesù alla fine del mondo. Vediamo primo passaggio. Aspettare Gesù nel Santo Natale. Io qui chiedo a voi adulti di fare tutto il possibile per far comprendere ai nostri ragazzi che il Natale è qualche cosa di diverso da quello che la pubblicità ci vuole dare. E allora, per esempio, vi dico, ponete, adesso è un po' prestino, ma ponete molta attenzione nel fare un bel presepe in casa vostra, coinvolgendo i vostri figli piccoli o i vostri nipotini. Sarà una cosa che non dimenticheranno più per tutta la vita. E infatti credo che tanti di noi adulti abbiamo in mente quando si faceva il presepe, quando si aspettava i regali la notte di Natale. Quando... Ecco, io chiedo a voi adulti di fare tutto il possibile, facendovi aiutare, magari, perché è incredibile, amici. Una volta, quando un po' di anni fa, c'era la novena di Natale o c'era l'Avvento in cui si aprivano delle finestrelle su una specie di cartoncino e ci si avvicinava al Santo Natale. Oggi c'è ancora un'usanza di questo tipo, ma è cambiata. Apri la finestrella e c'è dentro un cioccolatino. Capite come il commercio si è impadronito del Natale? Allora tocca a noi inventare, dal presepe a far disegnare qualcosa, a qualche libro illustrato sul Natale. Tocca a noi, cari amici, tenere viva l'attenzione al mistero del Santo Natale. Ma c'è un secondo aspetto. Nell'Avvento la liturgia ci dice anche che aspettiamo la fine del mondo. E viene descritto in una maniera un po' figurata dal Vangelo. Però dobbiamo riflettere, carissimi, che davvero ci sarà una seconda venuta di Gesù alla fine del mondo. E non credete a quelli che vi dicono la fine del mondo sarà il tal giorno, sarà il tal anno, sarà... Nessuno sa quando sarà la fine del mondo, tranne Don Ambrogio. Io so quando sarà la fine del mondo e sarà quando io morirò. Non lo dico a voi, se no vi spaventate, no? Quando tu morirai sarà la fine del mondo. Perché quando io morirò, il giorno dopo il sole si alzerà ancora per tutti voi, ma non per me. Perché io a quel tempo sarò già arrivato davanti a Gesù Cristo e mi avrà giudicato. Avrà visto il bene che ho fatto, il male che ho fatto, avrà visto che io mi rivolgerò alla Madonna e dirò: Madonna, tu sei la mia avvocata, difendimi dal nemico, dal maligno che vorrebbe la mia anima per i miei peccati che ho fatto, che ho confessato, e sarò giudicato. Per me quella è la fine del mondo. Amici, pensateci bene, perché questo sarà anche per voi, E allora, per i piccolini ho pensato, quello che ho detto prima, di prepararci al Santo Natale. Per i piccoli è inutile pensare alla fine del mondo, alla propria morte, ma per voi adulti sì. Cari adulti, se avete una certa età, io vi consiglio di pensare alla vostra morte, ma in maniera serena. E non vi immaginate che cosa vi suggerisco. Per pensare alla vostra morte, cari adulti, pensate a fare testamento. Magari hai 40 anni, 45 anni, 60 anni, o magari ne hai 80, pensa a fare il testamento. Non c'è nulla come fare testamento che ti fa pensare che non sei eterno. Perché purtroppo noi non ci pensiamo mai. Ma vi potrei portare tanti esempi. Ho visto, per esempio, alcune persone che hanno messo su una bella ditta metalmeccanica e sono partiti da un'officinetta. Ha messo su una bella ditta quotata in Europa, ma che non sono stati capaci di passare la palla al loro figlio. Avevano un figlio ingegnere nel loro settore, hanno tenuto in mano tutto loro. Così quando sono morti, anzi veramente è andato fuori di testa, il figlio non era preparato. Bisogna prepararci, cari adulti, a fare i nostri passi. Questa è saggezza. E se qualche bambino chiederà: papà, mamma, cos'è il testamento? Spiegateglielo. Spiegateglielo. Perché sapeste i litigi che un sacerdote incontra nella sua vita nel vedere la gente che litiga per i testamenti lasciati dai genitori? Non ce ne avete un'idea. Non ce ne avete un'idea. Bene, allora questo è l'avvento. Direte: don, ma ci devi parlare di prepararci alla seconda venuta di Gesù facendo Natale, facendo testamento e pensando alla nostra morte? Beh, io credo che non la dimenticherete questa predica, perché forse nessuno vi ha mai suggerito, anzi, se magari un tuo parente ti ha detto, magari tua moglie, tuo marito, tuo figlio grande, bisogna pensare a fare testamento, tu avrai fatto gli scongiuri. E invece è sapienza cristiana.